Maria Teresa. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Parlo con Nicoletta o con Deborah? Buongiorno Nicoletta, ma è proprio lei al telefono? Sì. Visto quello che succede da voi. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Piacere di sentirla. Anche per me, grazie. Cioè, a me non mi saluta, Cristiano? Non mi ricordo il suo nome. Bello. Dottor Gargiulo, ma è davvero lei a dirlo? Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tragedia a Riccione, un sedicenne si sente male in discoteca dopo una pastiglia di ecstasy. Inutile la corsa in ospedale dove il ragazzo muore. Anche oggi Cuore Denari prende spunto dall'attualità ed entra nelle famiglie degli ascoltatori per condividerne pensieri, dubbi, esperienze, timori, preoccupazioni e per trovare insieme ai nostri esperti strade, soluzioni, nuovi punti di vista per affrontare le sfide che la vita quotidianamente ci mette davanti. Parliamo della tragedia di Riccione, dove nella notte tra sabato e domenica è morto un ragazzino di soli 16 anni stroncato dall'ecstasy, un ragazzo come tanti, come i nostri figli, di cui poteva essere un amico, un compagno di scuola, era in vacanza, era andato a ballare con gli amici, nulla di strano ci sta, ogni genitore sa che arriva un'estate in cui i ragazzi reclamano un po' più di autonomia e ogni genitore sa che la richiesta è fisiologica e che rappresenta una fase di quel percorso di crescita che con tempi diversi porta all'ingresso dell'età adulta. Ma ogni genitore, quando acconsente a una richiesta del proprio figlio e fa le raccomandazioni del caso, in cuor suo deve fare i conti anche con una serie di timori, di paure, di dubbi, no? Si chiederà, userà la testa, metterà in pratica quello che a casa gli abbiamo insegnato, oppure si lascerà trascinare dal desiderio di novità e di trasgressione che nei giovani ha sempre un grande appeal. Voi che dite? Che pensieri state facendo? Che cosa dite ai vostri figli riguardo all'uso e all'abuso di fumo, alcol e droga? Ne parliamo tra poco, ma intanto confrontiamoci. Abbiamo proprio bisogno delle vostre esperienze, dei vostri pensieri. 800 24 00 24. Vorremmo proprio partire dalle vostre considerazioni. Nella seconda parte ci dedicheremo ad un altro fenomeno che, anche se con ragioni diverse, costituisce anche questo un pericolo per tutte le famiglie e i consumatori. Parleremo di contraffazione. È un mercato che muove miliardi, mette a rischio l'economia, alimenta i circuiti della criminalità e naturalmente mette a rischio anche le abitudini di consumo di ogni individuo. Pensate che i dati diffusi dall'Istat e dal Ministero dello Sviluppo Economico sono quelli relativi al 2013, ma oggi vi aggiungiamo ancora sulle medesime cifre, parlano di 6 miliardi e mezzo di valore della contraffazione e di oltre 105.000 posti di lavoro direttamente persi per effetto della produzione, commercializzazione e messa in vendita di prodotti falsi. Ma non ci sono solo gli effetti sull'industria e l'occupazione, la crescita delle attività illecite e criminali. L'acquisto di un prodotto contraffatto mette a repentaglio, Nicoletta lo sa bene, anche la salute e la sicurezza della persona. Voi allora vi chiediamo, fate attenzione a questi aspetti quando comprate qualcosa, pur un prezzo molto ridotto, vi fa dimenticare questi rischi. Vi è capitata una brutta esperienza proprio per via dell'acquisto di un prodotto che non era autentico? Pensate ai giocattoli che sono in circolazione che hanno queste caratteristiche, ma anche agli alimenti, agli indumenti. Avete acquistato con un canale tradizionale o siete andati con il commercio online? Noi oggi ne parliamo perché ci sono in Italia in questo momento due grandi campagne a tutela dei consumatori. Ne parleremo grazie anche ai vostri interventi. 800 24 00 24 a partire dalle 11.45. Vai, forza! Ma dove stiamo andando? Buttiamoci! Cosa? Chi hai detto? Buttiamoci! Ma che sei matta? Ma l'hai visto quanto è alto? Ho visto dei ragazzi che lo facevano. Dai! Io sono pianto, questa ragazza è troppo grossa, vieni via Carmen, vieni via. Se mi faccio male, vieni a prendere. L'avete sicuramente riconosciuto, un breve estratto di Che ne sarà di noi, il film del 2004, diretto da Giovanni Veronesi con Silvio Muccino, Violante Placido e Elio Germano, che raccontava le vacanze della maturità di questi, no, a Santorini, vacanze in Grecia anche in quel momento, anche in quel periodo, sì. Insomma, le prime vacanze lontane dal controllo diretto dei genitori, i primi amori, le ragazzate spesso finite in una risata, ma a volte qualcosa non funziona e una serata tra amici in discoteca si trasforma in una tragedia, una pastiglietta, e la vita si interrompe a 16 anni. È successo nei giorni scorsi a Riccione. Molti tra voi che ci state ascoltando ne avranno parlato con i propri figli in vacanza, in procinto di partire. Altri forse ci avranno rinunciato, pensando che se non si trovano le parole giuste, tanto vale continuare a parlare. Meglio fidarsi o affidarsi al buon senso dei nostri ragazzi e, perché no, alla fortuna. Parliamo oggi insieme di questo a Cuore Denari, per confrontarci, per capire, per sapere se e che cosa si può fare. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Luca Pagliari, giornalista e regista, autore del libro Christelle, il silenzio dopo la neve, che narra una vicenda terribile di ecstasy avvenuta in provincia di Bergamo nell'aprile 2008, e del docufilm Ogni giorno, realizzato in collaborazione con la Polstrada, in cui si ripercorre il dramma di un 14enne ucciso da un automobilista ubriaco e tossicodipendente. Un docufilm che sarà ufficialmente presentato il prossimo settembre, quindi vi stiamo dando in fondo un'anteprima. Ciao Luca, bentornato e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti voi. Non abbiamo anche detto che è un nostro grandissimo amico, questa è la sua qualità e qualifica più importante, direi. È vero, un fratello. E insieme... Fratelli, è vero. E insieme a noi abbiamo il piacere di avere il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Ci aveva detto torno a settembre, ma l'abbiamo convinto. Sì. Professor Remuzzi, buongiorno. Eccomi qua. Luca, ai figli bisogna dare radici e ali, no? Se le radici sono forti e ben consolidate, il ragazzo può volare libero, felice e sicuro. Si dice così e tutto questo ha senso, ma quante volte come genitori siamo assaliti da dubbi, timore, paure e tragedie come quelle di Lamberto Lucaccioni, sedicenne di Città di Castello, deceduto all'ospedale di Riccione dopo essersi sentito male nella discoteca Cocoricò, riattivano tutte le nostre domande e le nostre insicurezze. Chi di noi non si è raccomandato coi propri figli di non fumare, di non prendere pastiglie, di non bere? Ma quanti di noi alla fine di tutto questo non avranno pensato, chissà se ha capito, chissà se seguirà quello che gli sto dicendo? Luca, le parole non sempre arrivano al cuore e noi genitori spesso lo sappiamo. È proprio così, Nicoletta. Beh, innanzitutto bisogna dire che i ragazzi agiscono in base a quello che noi facciamo e non in base a quello che diciamo. Cioè, se gli diciamo per esempio di non fumare mentre teniamo la sigaretta in mano, probabilmente tra le nostre parole e la sigaretta vince la sigaretta. Personalmente, a livello di genitore, ho vissuto tutti questi dubbi, queste paure, cercando in primis mia moglie di essere sempre attenti e di cogliere qualsiasi segnale, ma magari ne parlerò più avanti. Invece, personalmente, a livello di giornalista, diciamo, di persona che lavora nella comunicazione, io ho da sempre privilegiato le storie, ho da sempre privilegiato il coinvolgimento emotivo forte, cioè lavorare proprio sul cuore, perché è di lì che transitano i cambiamenti, non basta l'informazione. Io quando ultimamente parlo di droga ai ragazzi, gli racconto appunto la storia di Christelle, 19 anni, uccisa da una pasticca di estasi. Christelle era una promessa dello sci azzurro, amava la vita, lo sci, la montagna più di ogni altra cosa. I ragazzi alla fine di questa storia in teatro piangono, restano inchiodati alle sedie della platea. Io non gli spiego nulla, anzi domando a loro come sia possibile che sia accaduta una cosa del genere. Li porto dentro una riflessione. Christelle deve diventare una loro amica. Christelle, ad esempio, e chiudo questa parte, si sarebbe potuta salvare se solamente gli amici tra virgolette, non avessero pensato di scaricarla fuori di casa alle 5 della mattina. Lei aveva solamente un gran mal di testa, diciamo che questo edema cerebrale aveva appena iniziato la sua missione di morte, senza essere contrastato minimamente da qualcuno. Se non altro, il povero ragazzo di Riccione, ma è stato troppo tardi, è stato subito soccorso. Allora, volete parlarne con noi? 800 24 00 24, confrontiamoci. Professor Remuzzi, a proposito di informazione, ho letto sul Corriere un suo articolo a commento della proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis, con norme naturalmente che ne disciplinano l'uso, mantenendo anche una serie di divieti. Ci sono differenti correnti di pensiero anche tra voi medici riguardo agli effetti della marijuana, che a differenza dell'ecstasy non è costruita a tavolino e quindi se ne conosce bene la composizione. Questo sicuramente non aiuta, professor Remuzzi. Ma non so se ci sono davvero tante differenze. Io penso che non c'è nessuno che metta in discussione che la cannabis per gli adolescenti rappresenti un problema. Assuefarsi è più facile, soprattutto se uno fuma tutti i giorni, il cervello dei giovani è più vulnerabile. Ci sono nei giovani sintomi di astinenza, ansia, irritabilità, perdita del sonno. In realtà su questo non c'è una grande discussione. Il problema semmai è legalizzare o non legalizzare le mafie, se legalizziamo noi possiamo fare in modo che la mafia sia meno aggressiva nei confronti dei ragazzi. C'è stato dopo il mio articolo un articolo del professor Veronesi che è convinto come me del pericolo della droga. Lui dice non discutiamo se sia dannosa o no per la salute, sicuramente lo è, si tratta solo di stabilire quanto naturalmente dipende dalla dose, ma la cannabis può essere pericolosissima per la salute. Il professor Veronesi fa un argomento che è interessante: se non riusciamo a dissuadere i nostri figli dal fumare sigarette o spinelli, almeno non buttiamoli nelle braccia delle mafie. Cioè, secondo voi la mafia si ferma per così poco? Perché noi diciamo alle persone di fumare, di coltivare 5 piantine in casa, o perché facciamo i negozietti dove vanno solo gli adulti a prendere marijuana? In realtà le mafie propongono sempre novità. Basta pensare alla cannabis sintetica, e loro hanno tutti questi nomi meravigliosi, spice, bonsai, oceanic herbs e tutte queste cose qua, e la mafia continuerà a cambiare questa cosa. E poi come facciamo? Facciamo vedere che gli adulti solo coltivano la piantina, quindi il papà coltiva la piantina e il bambino non può guardare mentre lui coltiva la piantina, oppure non può andare nel negozio dove va l'amico del papà, che forse non ha figli, allora lui la piantina la può coltivare più facilmente, ma mi sembra un pasticcio. Luca, il problema è serio comunque, perché il mondo della droga ha un marketing eccezionale, è riuscito a far credere ad esempio che la droga non sia droga. È proprio così. Innanzitutto sono d'accordo con il professor Remuzzi per la sua analisi, cioè partiamo dal presupposto che comunque la droga fa male e i nuovi principi attivi sono devastanti, e il marketing della droga si è evoluto e plasmato ai tempi, sono dei signori del marketing questi qua. Potremmo usare il claim più droga per tutti, meno costi più piacere, senza parlare ovviamente dei danni. I costi si sono abbattuti, non esiste più ad esempio anche il fenomeno dell'esclusione a fronte delle droghe, ma la droga è inclusione, è un biglietto d'ingresso nel mondo dell'allegria a tempo, perché naturalmente ha una scadenza l'effetto. Non esiste più, altro esempio, il classico spacciatore che ti vende la roba al buio tra le piante dei giardini. Vedi il caso di Riccione, era sembra oramai certo un altro ragazzo di Città di Castello ad avere l'estasi, un ragazzo che aveva conseguito da poco la maturità scientifica, era anche lui un consumatore, diciamo che lui è quello che era andato a fare, per così dire, la spesa per tutti. E poi la grande beffa, e cioè faccio un nome, se ne parla in questi giorni, cioè il Cocorico. Beh, io dico questo, ho girato tanti programmi con la RAI all'interno del Cocorico negli anni, e mi viene da dire che ci si potrebbe divertire come pazzi, ma senza assolutamente usare pasticche, perché lì c'è un simbolismo forte, quello della piramide, il ritmo ipnotico, il DJ che alla fine assume una figura sciamanica, insomma sono cose quasi antropologiche che bastano e avanzano per scatenare energie potentissime, non c'è bisogno di droga. E ultima considerazione, per rimanere a questo caso di cronaca, io non devo difendere nessuno, ma per gli stessi proprietari quello che è accaduto è un incubo, ma non solo come persone, anche se la volessimo vedere in termini commerciali e quindi più cinici, in termini di fatturato è un danno elevato nel cuore dell'estate vivere certo. una situazione infatti del vogliono genere. Costituirsi ci parte ci si può divertire con il ritmo tribale uniti in mezzo ad altri ragazzi ascoltando la musica, un certo tipo di musica, la droga è dentro di noi, uso un termine bruttissimo, ma dico l'emozione, l'adrenalina che può scatenarsi quando si balla accanto, seguendo un ritmo, è vecchia come il mondo questa cosa. Certo. Allora, 800 24 00 24, ci sono anche delle cose che noi genitori non riusciamo a vedere, dei segnali che i nostri figli ci mandano, delle frasi che ci dicono magari un po' per metà e che noi non abbiamo modo di ascoltare, e quindi se volete, se avete dei dubbi, se volete insomma aprire il vostro cuore, chiamateci, perché vogliamo così coinvolgere in questo confronto un grande medico, il professor Remuzzi, e Luca Pagliari, che nel suo lavoro di ragazzi ne incontra davvero a centinaia e è riuscito con una modalità nuova ad arrivare al cuore, perché punta sull'emozione, non sulla predica o sull'opuscolo. Mm-hmm. Abbiamo i nostri ascoltatori che vogliono intervenire. Altro che, in tanti si sono resi disponibili a raccontarci cosa pensano di questo argomento. Ci ha colpito subito, sono già d'accordo con Nicoletta, con uno sguardo ci siamo capiti al volo. Volevamo sentire subito quello che vuole raccontarci Andrea da Parma. Andrea, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Senta, io ho un problema che ho scoperto poco tempo fa con mia figlia. Ho scoperto che fa uso di spinelli, che fumava qualche spinello, e proprio la settimana scorsa so che è stata male perché ha preso, che gli ha dato un ragazzo, mi hanno detto un anestetico per cavalli, e la cosa mi ha fatto rabbrividire, a dire la verità. Volevo sapere se mi devo preoccupare, nel senso devo farla controllare. Allora, professor Remuzzi, grazie. Andrea, grazie. Professor Remuzzi. Tutte le cose che vengono assunte, le droghe sono pericolose tutte, il problema dipende dalla dose, dipende dalla composizione chimica, dipende da che cosa si tratta, qui ritorniamo, bisogna certamente preoccuparsi e certamente consultare qualcuno, ci sono in tutti gli ospedali persone che si occupano di tossicodipendenze, anche se questa non è una tossicodipendenza, si tratta del rapporto che c'è con la figlia, comunque dal punto di vista medico bisogna certamente approfondire di che sostanza si tratta. Se è stata una cosa occasionale che non si ripeterà, se viene fatta regolarmente, le droghe più diffuse sono cannabinoidi sintetici, ketamine, feniletilamine, piperazine, catinoni, ce ne sono di tutti i tipi, quindi si tratta di capire che cosa, perché, e poi dopo quando è una cosa occasionale o è una cosa abituale, poi si ritorna però, al discorso che faceva il professor Pagliari. Professor Remuzzi, una cosa occasionale o abituale, ma il caso del ragazzino di Riccione ci dice che si può morire anche per una pastiglia. Ah certo, si muore anche per una pastiglia. Luca, anche sì. Chi non ne ha mai fatto uso prima. Anche chi non ne ha mai fatto uso prima. Luca, Andrea ci ha chiamato per chiederci anche un consiglio, quindi immagino che Andrea avrà parlato con la sua ragazza, evidentemente le parole del genitore non sono arrivate, e tante volte i genitori di fronte a questo rimangono disarmati, no? Non riescono più ad andare avanti. Tu che cosa consiglieresti di fare a questo papà? Ma sai, dire di parlarci è ovvio, perché è ovvio, ma secondo me il tutto si rifà più che altro al tentativo di rovesciare un po' quel libretto delle istruzioni per l'uso che ci hanno dato, dove viene prima il lavoro, vengono prima gli affari, vengono prima tante cose e poi vengono i figli. Bisogna a volte sforzarsi, rovesciare questo concetto come fosse un vecchio calzino e pensare che la priorità può essere un figlio, può essere una passeggiata con un figlio, può essere stare accanto a lui, spegnendo la televisione. Cioè, io queste cose le hai scritte anche il libro che è uscito proprio il 18 luglio, Cara Marta, lettera a una figlia, che è il tuo regalo per i 18 anni di tua figlia, in cui parli di quanto siano i dettagli a fare la differenza, a volte delle semplici sfumature, anche quando la situazione sembra già così compromessa, come nel caso della figlia di Andrea, però ci può essere quel dettaglio che rovescia il calzino. Ma sì, ma poi i problemi, voglio dire, ci sono delle età che sono devastanti sempre, per cui il padre e la madre sono due cretini, loro conoscono ogni forma di verità assoluta, questo è un passaggio inevitabile. Però a proposito di cose impalpabili, io voglio dire proprio questo. A mia figlia, forse perché il mio strumento è comunque la parola e la scrittura, io ho pensato che sarebbe stato bello fargli un regalo che non avesse nulla di materiale, perché alla fine un libro è un libro, cioè, però ho dedicato 4-5 mesi della mia vita, di nascosto rigorosamente, per scrivere questo libro. E il 18 luglio, cioè 2 giorni fa, io e la mamma l'abbiamo portata in città e c'era questa vetrina della libreria tappezzata con questo libro. Io, è stata una delle cose più belle della vita mia, lo dico anche per la madre, perché probabilmente non gli ho regalato l'ultimo modello di un telefonino o neanche gli ho fatto trovare la macchina infiocchettata per quando prendere la patente. Forse gli ho regalato dell'amore. Punto. Andiamo a sentire i mercati. Ci siamo un po' scombussolate da questa dichiarazione d'amore di Luca per Marta. Naturalmente dopo i mercati continuiamo e riprendiamo il tema. Chiederemo al professor Remuzzi di farci una carta di identità dell'ecstasy. Cercheremo di raccogliere tutte le informazioni, ma naturalmente anche consigli per la gestione, per l'uso, i dettagli che non dobbiamo sottovalutare. 800 24 00 24, vi invito a chiamare il nostro numero verde e a parlare con noi. A tra poco, dopo i mercati. Cuore e denari. Occhiali, portachiavi, accendini, Rolex, foulard. Occhiali, portachiavi, accendini, Rolex, foulard. Insomma, chissà quanti di voi sulle spiagge, lungo le strade delle città, dei luoghi di villeggiatura stanno incontrando il venditore ambulante come quello che abbiamo sentito in questa clip. Situazioni ricorrenti, ci sono situazioni in cui siamo consapevoli che quello che viene venduto è un prodotto che non è autentico, forse siamo un po' meno consapevoli del fatto che non sia anche un prodotto sicuro, che sia anche un prodotto non sicuro. Il fenomeno della contraffazione è ancora più profondo e complesso, richiede molta attenzione ad ogni consumatore e non solo in vacanza. In ballo, oltre allo stato di salute della nostra economia, alla sua trasparenza ed equità, c'è anche la salute di noi che quel prodotto lo acquistiamo, magari lo indossiamo, lo mangiamo e ci facciamo giocare i nostri bambini. Allora, 800 24 00 24 è il tema che affronteremo alle 11.45, perché ci sono due grandi campagne per la lotta alla contraffazione in corso, stanno entrando nel vivo proprio in questo periodo, in una stagione estiva, poi capirete perché. Voi fate attenzione a questi aspetti quando comprate qualcosa, oppure un prezzo molto ridotto vi fa assolutamente mettere da parte ogni paura di ogni rischio. Vi è capitata una brutta esperienza proprio per via dell'acquisto di un prodotto che non era autentico, un alimento, un indumento? 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione. Pastiglietta, una canna, un giro di sciottini, forse anche queste sono prove di volo che i ragazzi dotati di quel famoso paio d'ali fanno per sentirsi, per misurarsi, sentirsi grandi o per appartenere al gruppo, per non sentirsi diversi dai compagni. E questo ci preoccupa ancora di più, perché abbiamo la percezione che sia cambiato l'atteggiamento dei ragazzi nei confronti di alcol e di droghe, no? Ai nostri tempi erano un po' considerate come un elemento trasgressivo, addirittura di protesta nei confronti delle regole, del conformismo. Oggi assistiamo a una pericolosa normalizzazione nell'uso delle droghe, specie se leggere o considerate tali. Ne stiamo parlando col professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, e con Luca Pagliari, giornalista, regista, amico di Cuore Denari, della Deborah Dell'Anico, autore del libro Cristel, Il silenzio dopo la neve, che narra una vicenda terribile di ecstasy avvenuta in provincia di Bergamo e nell'aprile del 2008, e del docufilm Ogni giorno, che è realizzato in collaborazione con la Polstrada, in cui si ripercorre proprio il dramma di un 14enne ucciso da un automobilista ubriaco e tossicodipendente. Questo docufilm sarà presentato ufficialmente a settembre. Professor Remuzzi, vorrei tornare a lei per fare una sorta di identità di quella che è definita la droga dell'amore, no? È una droga, l'ecstasy, è una droga sintetica, e viene così anche battezzata con la sigla e l'acronimo del suo contenuto chimico MDMA. In realtà è un'anfetamina, giusto? Con effetti eccitanti e allucinogeni, è corretto? Certo, è un'anfetamina, è una, precisamente una metilen diossimetanfetamina. Viene assunta intanto perché ha un'azione stimolante, poi per una serie di effetti immediati che vengono ritenuti piacevoli, per esempio l'euforia, il senso di forza fisica, il senso di essere potenti, importanti, l'aumento delle sensazioni emotive, la maggiore facilità nei rapporti sociali, ma sono effetti illusori perché dopo poche ore c'è un senso di frustrazione, una perdita dell'umore, dell'energia, una depressione, una tristezza. Si tratta di prendere normalmente 100-120 mg, ma come dicevate prima, il pericolo deriva dalla contraffazione. Solo il 40% delle pastiglie di ecstasy contengono questo prodotto MDMA puro. Molto spesso è tagliata con altre sostanze, quando è caffeina va bene, ma se fosse per esempio fenciclidina, allora il problema è molto molto più grave. Quindi ci si cala, perché si dice così, questa pastiglietta, ma in realtà non si sa che cosa si stia assumendo. Esatto, soprattutto quando, come è successo, questa pastiglia te la dà un altro, il quale l'ha presa a sua volta da un altro, non sai da dove vengono queste cose, come logico che sia. Professore, è vero che l'ambiente incide anche sulla tossicità da ecstasy, luoghi molto affollati, musica a tutto volume, ambienti molto riscaldati, certo, condizioni, e anche sì, lo stato della persona che lo assume, che di solito magari ha bevuto anche alcol, è disidratato, balla, quindi è sotto uno stress fisico? Certo, dipende tutto dal fatto che si abbassano nel sangue i livelli di sodio. In discoteca i ragazzi ballano anche in modo forsennato, sudano, e così nel sudare perdono acqua e sali, però hanno sete e col bere introducono liquidi, soprattutto alcol, e non sali. Così i livelli di sodio nel sangue si abbassano ancora. L'attività fisica della discoteca, che è molto intensa, libera un ormone, questo ormone si chiama vasopressina, e questo ormone aumenta il riassorbimento dell'acqua da parte del rene, così i livelli del sodio nel sangue scendono ancora. In più, chi prende ecstasy ha ancora più sete, un po' per effetto del farmaco sul sistema nervoso e un po' perché anche questo farmaco, come l'alcol, libera vasopressina. E in più riduce i movimenti dell'intestino, soprattutto quelli del piccolo intestino, dove si raccoglie acqua. Appena uno smette di ballare, l'acqua si riassorbe, il sodio nel sangue si riduce ancora e allora le cellule nervose si rigonfiano perché dall'esterno entra acqua. Si comincia ad avvertire un po' di mal di testa, poi nausea, poi dolore addominale, vomito. Nel giro di poche ore si può essere confusi e avere difficoltà a respirare, si arriva poi alle convulsioni e al coma. Gli ecstasy muoiono di più le ragazze per via degli estrogeni, che riducono la capacità delle cellule del cervello di opporsi all'entrata dell'acqua, e muoiono di più i giovani degli adulti, perché il cervello dei giovani occupa più spazio nella scatola cranica e basta poca acqua in più per incontrare subito la resistenza della scatola cranica, e se c'è edema poi il cervelletto si sposta e può esserci compressione del tronco, allora c'è l'arresto respiratorio. Andiamo a Luca da Ravenna e poi abbiamo un altro Luca da Reggio Emilia. Luca, buongiorno da Ravenna, benvenuto. Luca? Luca si è distratto. Luca è andato a farsi un giretto, ha perso il turno, lo richiameremo. Luca da Reggio Emilia? Vediamo se pronto. È più affidabile. Ecco, da Reggio pronto. Emilia, buongiorno Luca, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Mi dica. Sì, niente, io volevo solo dire che non concordo pienamente con quello che era stato detto prima dello stacco pubblicitario, e cioè che i ragazzi non sanno perché usano le droghe, non sanno perché si ritrovano il sabato sera ad assumere, protesta eccetera. L'unico motivo per cui le usano, e io sono un ex consumatore occasionale, è il fatto che la droga è veramente bella, soprattutto l'ecstasy, purtroppo la percepiscono come un divertimento spassosissimo e non vedono l'ora di ripeterlo il weekend successivo. Non si sa neanche perché cosa si comincia, perché magari si va in discoteca, tutti la prendono, ma non è sufficiente andare a ballare al Cocorico perché c'è la piramide, perché c'è la musica, eccetera. Se non c'è la pasticca non ci si diverte. Non c'è niente da fare. È tristissimo, ecco, questo, Luca. È molto triste, ma è così che funziona. Ma è così ci che rassegniamo. Funziona, io... No, dobbiamo combatterlo. Luca, lei come genitore, o anche se non è genitore, sì, dobbiamo. No, sono un genitore, sì. Molto preoccupato. È preoccupato, perché... ma cosa facciamo? Ci rassegniamo? Non bisogna rassegnarsi, però ecco. Purtroppo la percezione del giovane è quella. Quando un ragazzo torna a casa dalla discoteca e si è divertito come un pazzo solo perché le sue sensazioni si sono amplificate eccetera, è perfettamente consapevole che senza l'utilizzo della pasticca non sarebbe successo e non vede l'ora che sia il sabato dopo per ripetere. Guardi, io personalmente penso di aver provato una ventina di volte in tutto e a un'età già di 24-25 anni, ai ragazzini di 17-18 anni che si avvicinano alle droghe non riescono, secondo me, ad avere un controllo su loro stessi e capire che quello che fanno è una cosa estremamente negativa da non ripetere assiduamente e starne alla larga, da utilizzare solo come un divertimento occasionale. Allora, ci si tuffa una pesce, diventa veramente pericolosa come cosa. Luca, di sabato in sabato il tuo omonimo ci racconta che i ragazzi non vedono l'ora di calarsi la pastiglietta, tra l'altro l'ecstasy si può anche sciogliere, no? C'è anche certo. Si crea una forma di dipendenza, sono dipendenti senza saperlo. Ma certo che sì, non concordo pienamente, è vero che la pasticca sicuramente fa parte del pacchetto del sabato per chi va in certi locali, ma non per tutti, assolutamente, non è proprio così che stanno le cose, certo che è così. Il vero problema è che noi contiamo i morti, che sono molto pochi, ma in realtà muore ogni sabato una parte di te stesso. È questo un altro problema non da poco, perché il tuo sabato diventa quello senza l'additivo, non è più un sabato, ma anche il martedì, il mercoledì non hai più gli occhi per sentire il profumo o per guardare un tramonto o la voglia di fare una passeggiata, quindi si muore un po' dentro, si bruciano le emozioni oltre che le cellule cerebrali, voglio dire, e poi usciamo anche dalle discoteche, la droga di oggi è diversa, ricorda un po' la vecchia pubblicità del digestivo Antonetto, che c'era quell'attore che diceva si può prendere anche in tram. Qui è la stessa cosa, le droghe di oggi non si consumano solo in discoteca, va bene una festa qualsiasi, non si sposano solo con la musica, si adattano a qualsiasi esigenza. Torniamo al discorso del marketing della droga, che ha una soluzione e una proposta per qualsiasi circostanza. Ultima cosa, non accade quasi mai che venga la famosa leggenda della droga che ti viene messa a tua insaputa, ma in genere chi va a prendere una pasticca è ben consapevole di quello che fa. Sì, come diceva anche l'amico, l'altro Luca, diceva per curiosità, per goliardia, senza certo. pensarci, perché l'amico comunque sia, si è quasi sempre consapevole. Diciamo che il vecchio famoso non prendere le caramelle da uno sconosciuto non è funziona, sì, è un po' anacronistico. Noi dobbiamo cambiare tra poco argomento, parleremo di contraffazione, ma il professor Remuzzi, visto Deborah, ha creato un link fra i due argomenti molto interessante, infatti. Allora, torneremo ad affrontare a questo tema quando Luca presenta il suo docufilm, che ne dici? Volentieri, inviteremo anche il professor Remuzzi, certo. perché lui aveva detto a settembre torno, e quindi vede, professore, Luca Pagliari fa pure un docufilm per farla tornare da noi. Perfetto. presto. Grazie a Luca Pagliari, grazie al professor Remuzzi. Grazie ad entrambi, complimenti per il vostro impegno naturalmente su questi, in questi mondi così, così delicati e così complessi, anche da gestire dal punto di vista dell'informazione, no Nicoletta? Perché bisogna un pochino viaggiare sul filo di lana, essere attenti a trattare con la dovuta delicatezza questi argomenti, perché poi quando si, tra virgolette, giudica il comportamento delle vite degli altri, delle altre famiglie, no, bisogna sempre farlo con molto sale in testa. Detto questo, noi andiamo, ci fermiamo, a sentire, siamo pronti, sì, che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ti dico poi che intanto nel frattempo, mentre lanciavamo anche questa seconda parte di Cuore Denari, ci abbiamo già avuto delle mail a cuoredenari@radio24.it, c'è pertino una società che ci ha chiesto di poter intervenire perché loro ci hanno raccontato, fanno la certificazione di prodotti non autentici. Chissà come fanno, ce lo facciamo raccontare, perché ci dobbiamo portare in giro una piccola applicazione al mercato e adesso te la racconto. Cuore e denari. È stato un gioco falso, io lì non c'ero, vero che sei la sola, vero che ti ho ingannata, falso, se non mi credi giuro sulla mia vita. Il problema della contraffazione è molto rilevante per il nostro paese, viene indagato spesso, le indagini che ci sono ci dicono quanto danno comporti al Made in Italy l'esistenza di questa economia parallela, che è anche l'estrema conseguenza di alimentare i circuiti della criminalità organizzata, oltre a sottrarre ricchezza al paese e agli italiani. Al fenomeno sono evidentemente interessati le forze dell'ordine che combattono la contraffazione in ogni modo, gli imprenditori italiani che cercano di migliorare sempre di più la qualità delle produzioni Made in Italy, dalla moda ai prodotti dell'agroalimentare, ma non solo, per tentare di renderli inimitabili. Anche le istituzioni si muovono, le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori, che hanno lanciato alcuni progetti che vogliono proprio sensibilizzare sempre di più la collettività su questo argomento, che tra l'altro magari proprio in estate si arricchisce di risvolti da spiaggia, l'ho chiamati così, Nicoletta. Hai fatto bene, mi perché piace questa nota, questa pennellata. Perché molti, diciamocelo, sono tentati di fare l'acquisto dell'anno dall'extra comunitario di turno, tra borse, borsette, portafogli, occhiali, chi più ne ha più ne metta, eccoci che qualcosa lo portiamo a casa, magari con la scusa di dare una mano al venditore ambulante che vediamo lì sofferente sotto il sole con questo carico di borse addosso, un po' ci impietosisce e poi però andiamo ad alimentare dell'altro. I progetti che vi presentiamo oggi sono due. Io sono originale, iniziativa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata sul territorio con tante tappe in tante città italiane dalle associazioni dei consumatori, e poi la Carta Italia sul commercio online, che è stata firmata proprio il 14 luglio, promossa dal consorzio Netcom, quello del commercio elettronico, da Indicam e anche in questo caso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Buongiorno a Claudio Bergonzi, segretario generale di Indicam, l'istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. E Dino Cimaglia del Consiglio Direttivo dell'Unione Nazionale Consumatori, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno. Allora, come sempre, numero verde a disposizione degli ascoltatori 800 24 00 24. Oltre al vostro pensiero sull'argomento, ci piace di più, come sapete, la vostra esperienza. Su quale prodotto non siete neanche lontanamente disposti a lasciarvi tentare da un falso Made in Italy? Oppure, ve la metto al contrario, ogni tanto peccate e poi vi pentite perché evidentemente la qualità dell'articolo è quella che è, evidentemente discutibile, oppure perché insomma vi siete anche imbattuti in un articolo che alla fine avete scoperto aveva delle qualità dannose per la salute, no? Perché con Nicoletta parlavamo a microfoni spenti del fatto che io mi focalizzo quasi sempre sull'agroalimentare, sulla pelletteria, le borse, l'abbigliamento, eccetera. I tessuti. E invece il tema del farmaco, della cosmesi è vastissimo. E lì altro che ci addentriamo in un terreno, no, Nicoletta? Un terreno molto pericoloso. Ci sono state delle campagne, i farmaci contraffatti, quelli che si comprano anche online. E sono veramente molto rischiosi per la nostra salute, e, però anche in questo caso ci sono dei messaggi che sono così chiari, ma evidentemente qualcosa sbagliamo perché non arrivano. Non arrivano, ecco. Ed è proprio un tema che affronterò sia con Claudio Bergonzi che con Dino Cimaglia. Prima però vorrei fare, visto che sono proprio in corso, il biglietto da visita delle due iniziative delle quali vogliamo parlare oggi. Allora, Dino Cimaglia, ho sbagliato anche noi. Unione Nazionale Consumatori ci presenta Io Sono Originale. Sì, è un progetto molto ambizioso, non è la prima volta che ci troviamo a realizzare progetti su questo tema della contraffazione, come dicevate voi, a noi molto caro. È un progetto che rispetto alle precedenti edizioni ha l'ambizione di invertire l'ordine dell'informazione. Nelle precedenti edizioni ci siamo concentrati sulla realizzazione di vademecum informativi divulgati sul territorio tramite i nostri sportelli. Questa volta invece abbiamo tentato di andare incontro alla gente. Appunto, la parte centrale di questo progetto è questa roadmap che interessa tutta l'Italia con molte tappe pubblicizzate tra l'altro sul sito iosonooriginale.it, quindi ci sono le date degli eventi e le città di riferimento, proprio per andare a portare tra la gente nei punti di maggiore aggregazione come spiagge, come piazze, le vie principali delle città, l'esperienza e il messaggio principale, che è prendere le distanze da questo fenomeno, andando a informare i consumatori non tanto dei problemi legati all'economia, che sono comunque importanti e rilevanti, parliamo di diversi miliardi di euro, ma soprattutto dei danni alla salute, i danni per i cittadini. Come vedremo nel corso della nostra chiacchierata mattutina, molti dei fenomeni si concentrano proprio sul commercio di giocattoli, quindi destinati ai più piccoli, e molte volte la tossicità delle materie utilizzate porta dei danni alla salute molto molto gravosi. Insieme a questi flash mob ci sono ancora una volta dei progetti informativi, quindi attraverso dei vademecum divulgati anche sul web, e la creazione di una piattaforma sul sito Io Sono Originale attraverso la quale i consumatori possono condividere le proprie esperienze, condividere le foto diciamo che vengono scattate, che sono un altro modo di interazione molto importante e interessante, dei fenomeni come si manifestano nelle proprie città, quindi al di là dei classici soggetti che vendono prodotti contraffatti sulle spiagge, anche le principali zone di aggregazione come strade e locali. La cosa interessante è che questi documenti fotografici che vengono pubblicati sono di ausilio anche alla polizia giudiziaria, che è in grado di identificare le zone di principale aggregazione dove si concentrano questi fenomeni e creare proprio una mappatura a livello nazionale sulle zone dove c'è maggiore concentrazione. Infatti, individuare magari anche le organizzazioni che stanno dietro questi fenomeni. Allora, questa è la prima parte dedicata a Io Sono Originale, appunto Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione dei Consumatori. La prima tappa di questo roadshow si è svolta a Torino, è stata toccata a Torino, poi sempre per continuare i nostri match, Nicoletta, l'ultima sarà il 7 agosto a Senigallia, che è la città di Luca Pagliari. Mi viene troppo da ridere, guarda, stamattina. Allora, volevo sentire Claudio Bergonzi, abbiamo un minuto e mezzo di tempo e chiedo anche a lei una sintesi, poi naturalmente approfondiremo nella seconda parte. Ci racconta che cos'è la Carta Italia che avete firmato come Indicam insieme al Consorzio del Commercio Elettronico Netcom, e magari se ce la fa in 10 secondi ci racconti che cosa fa anche Indicam, Bergonzi, così abbiamo detto tutto agli ascoltatori. Grazie. Indicam è un'associazione che raggruppa più di 100 aziende italiane soprattutto, ma anche multinazionali, cosiddetta ad alta intensità di proprietà intellettuale, ovvero quelle aziende che hanno un grandissimo investimento in titoli di proprietà intellettuale, quindi marchi, brevetti, disegni, modelli. Carta Italia è un documento realmente innovativo, di grande innovazione non solamente in Italia dove è il primo, ma in generale in tutta Europa. Innanzitutto mi preme sottolineare che è un ottimo esempio di collaborazione pubblico-privato. Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Direzione Lotta alla Contraffazione, il sottosegretario Vicari si sono sempre spesi per fare in modo che le due parti, cioè noi e Netcom, che abbiamo dato origine a questo protocollo, riuscissimo a dialogare nell'ambiente più, diciamo, sicuro e più collaborativo possibile. Mancava in Italia un documento del genere che sostanzialmente porta i titolari di diritto e gli operatori del web e del commercio elettronico a dialogare e a collaborare per cercare di arginare il fenomeno della contraffazione online. Questo è un fenomeno enorme, pervasivo, si parla di circa 200 miliardi di scambi all'anno in dollari solamente di merce contraffatta online. Di fatto Carta Italia va a stabilire che le parti private, quindi noi, industria e i soggetti che operano nel commercio elettronico sul le web, piattaforme che intermediano. Esatto, le piattaforme che intermediano arrivino a collaborare nella fase in cui il titolare di diritti, cioè l'industria, denuncia una situazione su una delle piattaforme di vendita di prodotto falso, ma soprattutto arrivino a collaborare in fase preventiva. Ok, Bergonzi, ne ritorneremo a parlare fra 7-8 minuti al massimo, tra poco. Cuore e denari. Viva, viva, viva la gente originale che in una mongolfiera velocemente sale, grida uye, le mie speranze non sono uye e non mi faccio male. Viva, viva, viva la gente positiva, è una locomotiva che parte quando arriva, grida uye, le mie speranze non sono uye, yeah, yeah. Allora, voi siete consumatori originali, siete consumatori attenti, inflessibili, che scelgono solo prodotti autentici, magari invece che comprare tre cose nuove l'anno, se ne compra una alla volta, si spende un po' di più, però si compra l'originale. Insomma, le correnti di pensiero anche su questo argomento sono le più disparate. Stiamo parlando di prodotti contraffatti. Stamattina, in quest'ultima parte di Cuore e Denari, abbiamo all'inizio di questo approfondimento presentato due iniziative molto importanti, freschissime. Una è Io sono originale, iniziativa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e poi concretamente realizzata dalle associazioni dei consumatori che stanno girando per tutte le città italiane con dei banchetti informativi e non solo, tante iniziative, flash mob anche appunto dicevi in tante città italiane, in questo percorso che è partito il 24 giugno a Torino e si concluderà il 7 agosto a Senigallia, per cui magari in qualcuna delle più grandi città italiane vi capiterà di incappare anche in una di queste postazioni. E poi insieme a noi anche Indicam, che è l'istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, che con Netcom stamattina, scusate per tutte le sigle, ma sintetizzano dei mondi molto ampi, così si chiamano. Netcom è il consorzio del commercio elettronico. Queste due organizzazioni il 14 luglio hanno invece presentato la Carta Italia per fare in modo che si possa vigilare attentamente su tutto quello che è intermediato nel mondo online, in termini appunto di prodotti, per fare in modo che nel mondo online non passino anche i prodotti contraffatti. Insomma, ho sintetizzato molto, ma molto meglio poi i protagonisti ce l'hanno spiegato prima della nostra pausa. Adesso sentiremo anche le vostre iniziative, le vostre testimonianze all'800 24 00 24, il vostro pensiero su tutto questo. Abbiamo ancora in linea Claudio Bergonzi, segretario generale di Indicam, e Dino Cimaglia, del Consiglio Direttivo dell'Unione Nazionale Consumatori. Peraltro, Cimaglia, voi come Unione Nazionale Consumatori quale città avete preso? È Cimaglia che ha il telefono, scusatemi. Bergonzi, torno da lei. Allora, ci spiega un po' meglio intanto il tema del commercio online. Abbiamo capito appunto che è molto analizzato, no, in questo momento, perché chiaramente è molto fiorente e raccontiamo i numeri molto spesso anche dai microfoni di Cuore e Denari, per cui effettivamente è un'intermediazione dalla quale passa di tutto. Però quello che mi piacerebbe capire anche attraverso i suoi suggerimenti, che voglio che, esattamente come abbiamo fatto per la prima parte della trasmissione, vadano dritti al cuore e alla mente dei nostri ascoltatori, no? Siamo proprio sicuri che dobbiamo vigilare così attentamente solo ed esclusivamente sul comportamento del consumatore? Ci sono anche le istituzioni che devono interrogarsi un po' di più sulle iniziative che intraprendono, sui controlli che effettuano? Mi vengono in mente anche, non lo so, sul territorio, le amministrazioni locali, i sindaci, che cosa possono fare di più? Sicuramente è un fenomeno complesso. Delegare il tutto alla coscienziosa opera del consumatore è riduttivo ed è di fatto impossibile nell'ottica di ottenere dei risultati positivi. Noi purtroppo siamo in presenza di un fenomeno che è passato da appunto fenomeno alimentato dalla domanda probabilmente di una certa fetta di consumatori a fenomeno criminale, quindi di fatto abbiamo scalato il problema dalla semplice scelta del cittadino ha un sistema molto più pervasivo, capace di infiltrazioni sospettabili, e quindi sicuramente l'opera che ci vuole è un'opera coordinata, quindi ci vogliono l'intervento delle istituzioni, come abbiamo visto prima in Carta Italia, c'è, per esempio il Ministero dello Sviluppo Economico si è mosso in questa direzione. In questi giorni il sottosegretario Vicari e il ministro Alfano hanno firmato un protocollo importante anche in questo, per un maggiore coordinamento sul territorio della lotta alla contraffazione. Come diceva lei, anche le attività delle amministrazioni sono fondamentali, perché ovviamente noi in questo periodo, per esempio, abbiamo quella che voi avete chiamato giustamente la contraffazione da spiaggia, quindi si sposta un po' il fenomeno, però ovviamente stiamo parlando di un fenomeno talmente capillare e veloce e liquido quasi, che effettivamente ci vuole un intervento tempestivo e puntuale e molto veloce, quindi il tutto deve essere nelle mani di attori sul territorio. Le forze dell'ordine in Italia fanno sicuramente molto più che in altri paesi, bisogna dirlo, in primis la Guardia di Finanza, ma anche le dogane italiane sono molto efficaci in questo, però ripeto, è un'opera che deve vedere tutti coordinati, e poi sicuramente arriveranno, come arrivano tuttora, le informazioni al cittadino, ma se il cittadino è lasciato solo nella lotta, ahimè, riesce a fare abbastanza poco. Certo, senta Bergonzi, in quali settori di produzione e di distribuzione rischiamo maggiormente di imbatterci nella contraffazione? Noi facciamo queste analisi in lungo e in largo per quello che riguarda il settore dell'abbigliamento, la pelletteria, quindi anche proprio i vanti, no, del Made in Italy italiano, per non parlare poi di tutto quello che c'è dietro al settore dell'agroalimentare, lì più che contraffazione sono i nomi di certi prodotti che vengono contraffatti, poi distribuiti in tutto il mondo, e quello dell'Italian Sounding come fenomeno ed è un altro tema. Abbiamo già citato la cosmesi con Nicoletta, i farmaci, ma si può contraffare tutto, tutto è il rischio contraffazione? No. Tranne cuore denari. Tranne cuore denari, naturalmente. E beh, ci potrebbero arrivare, però non li stuzzichi, no, lei, certo. Bergonzi, ma devo giustificare anche il lavoro che noi abbiamo. Sì, però si copiano le cose belle, i capolavori, no? Esatto. Ma guardi, si copia. Allora, io parto da un dato che forse anche ai radioascoltatori permette di inquadrare meglio il problema. L'Europol, che è l'organizzazione che mette in coordinamento le polizie dei 28 stati dell'Unione, dice che $1,000 investiti nel mercato dell'eroina generano $20,000 di profitto. Gli stessi $1,000 investiti nel mercato dei farmaci contraffatti, soprattutto in alcune categorie, generano $500,000 di profitti. Nelle sigarette $43,000. Quindi stiamo realmente parlando di qualcosa che ha spostato il focus della criminalità organizzata verso la produzione e verso l'interesse su questi prodotti. Di fatto tutto è contraffatto, quindi sicuramente siamo partiti dai settori storici, quindi il lusso, gli accessori, l'abbigliamento. Sì. Oggi abbiamo dischi dei freni contraffatti, abbiamo airbags contraffatti, farmaci, orologi. Parlavamo spesso con i cosiddetti pneumatici che si mettono pneumatici in auto. Abbiamo quasi ogni categoria di prodotto. Non è un caso che l'Interpol ci dica che il farmaco al mondo più contraffatto sia un antibiotico, quindi questo significa dove stiamo arrivando. Siamo partiti da farmaci che erano di certe aree ben identificate e oggi siamo in generale in un mercato che è molto più pervasivo. Certo. Anche in questo sicuramente bisogna ovviamente lodare per esempio delle iniziative o dei sistemi virtuosi, come sempre accade ancora una volta nel nostro paese. Ad esempio nel tema dei farmaci noi abbiamo una sostanziale inviolabilità della filiera distributiva, ricollegandomi anche a quanto lei mi chiedeva inizialmente. Un ascoltatore ci scrive, e questo ce lo dicevamo proprio con Bergonzi nel nostro confronto pre-trasmissione: secondo me l'articolo contraffatto più pericoloso sono gli occhiali, è vero, parlava proprio di un gesto goliardico Bergonzi quando mi raccontava, diciamo, del ruolo del consumatore, no, in tutto questo, quindi farsi belli con un paio di Ray-Ban da consumare così nella modalità da sfoggiare un po', usa però e getta solo l'estate, magari spendo questi 10 euro, però faccio un po' il fighetto per luglio e agosto, poi li butto, però con tutto questo sole Bergonzi, l'occhiale contraffatto ti può provocare anche dei danni. Sì, ci sono dei prodotti veramente dannosi, no, quindi non solamente per la marca che li produce, ma per il consumatore che decide di acquistarli con un gesto goliardico. Per strada si trovano bancarelle di tutti i tipi, o anche online, ma è anche facile per strada, appunto, bancarelle di tutti i tipi che vendono tutti i tipi di occhiali. Chiaramente un gesto così abbastanza leggero, con 15-20 euro si compra un occhiale di marca. però di fatto il danno è un il danno vista, nel breve, quindi, nel, breve nel lungo periodo certificato, come poi ci ha raccontato il nostro oculista proprio nella puntata che abbiamo dedicato agli occhiali da sole la scorsa settimana. Potete andarla a riascoltare. Bravissima, questa mattina veramente stiamo facendo tantissimi match, più del solito direi. Allora, no, poi tra l'altro mi viene anche in mente l'altro fenomeno, proprio le estreme conseguenze di tutto questo. A fine stagione, quando i venditori ambulanti, pur di disfarsi di tutta la loro merce, la mettono su quel mercato lì, se di mercato possiamo parlare, a prezzi ancora più stracciati, per cui ci invogliano ancora di più. Quell'occhiale a 15-20 euro a inizio stagione lo troviamo magari a 10, ce lo portiamo a casa lo stesso. Allora, sentirei un paio di ascoltatori, poi torno a Dino Cimaglia, che abbiamo recuperato, Unione Nazionale Consumatori, per Io Sono Originale. Però velocemente, Cimaglia, voi come Unione Nazionale Consumatori in quale città sarete di tutte queste che l'operazione... Noi saremo proprio qui a Roma, e a Benevento e a Catania, in queste tre tappe, e nell'estate con i nostri responsabili territoriali, proprio con dei flash mob, soprattutto per divulgare molto materiale informativo attraverso dei focal point che presteranno anche assistenza e consulenza a coloro che rivolgeranno delle domande per appunto avere informazioni, soprattutto a chi segnalare questi casi. Ecco, bravo, perché il tema è quello, perché io, per carità, se la incontrassi Cimaglia glielo vengo anche a raccontare che c'è quel venditore ambulante che c'ha delle borse spettacolari, ma che magari ho la sensazione abbiano una pelle che è stata trattata magari con del materiale chimico non proprio idoneo, quindi si sente l'odore, può essere dannoso. Però lo step successivo poi che cos'è? Voi che cosa suggerite di fare? Perché allora, pure lì a metterci a denunciare l'ambulante, veramente, con tutto il tema che c'è in questo periodo, con tutti questi arrivi, è come sparare sulla Croce Rossa. Non abbiamo più neanche voglia di fare quello noi come consumatori, hai voglia di fare noi i moralisti, i consumatori attenti, ma lì che si fa? Bene, la partita ce la giochiamo su tre canali sostanzialmente. Il primo canale è quello di avere dei consumatori attivi. Sono d'accordo con te quando dici che può scocciare il fatto di dover segnalare, anche perché difficilmente i consumatori sono in grado di cogliere gli effetti positivi della segnalazione. Oggi un fenomeno molto importante legato allo sviluppo della contraffazione è il fatto che non si ha una mappatura nazionale dei principali luoghi dove questo fenomeno si sviluppa e delle potenzialità di sviluppo che ha. La battaglia deve essere condotta soprattutto nell'individuare i luoghi di principale aggregazione, operando dei sequestri massivi della merce contraffatta. Ovviamente non è segnalando l'ambulante, denunciando l'ambulante che si risolve il problema, ma il punto è capire quali sono i centri di smistamento, di divulgazione, di diramazione, attraverso i quali le grandi organizzazioni che stanno dietro l'ambulante sono in grado di rifornire e evidentemente dare sviluppo a queste aree, perché non c'è un interesse ad intaccare delle zone dove materialmente poi non c'è un commercio, se lo possiamo definire, no, se con la tua battuta, non c'è domanda di beni. Allora, operando questi sequestri, la Guardia di Finanza è molto attiva su questo versante, grazie alla polizia locale si ha una mappatura, quindi delle zone principali della collezione, siamo in grado di dare un sostegno alla polizia giudiziaria per avere questi sequestri. L'altra partita su cui ci giochiamo, ovviamente, il fenomeno, un contrasto efficace al fenomeno, è proprio quello dell'informazione, non soltanto sui pericoli, no? Ovviamente tutti sanno qual è il pericolo alla salute derivante da un giocattolo contraffatto o da una pelle che ha un contenuto tutti di lo sanno, mica lo so, mica lo so, Dino, sì, non sono tanto sicura che ci sia questa consapevolezza che pervade tutti al 100%. Il punto, lo sai qual è? È che sostanzialmente, questo magari una nota la devo fare alle aziende, i consumatori non sono in grado di capire quali sono le peculiarità di un prodotto originale. Ovviamente nessuno sa qual è la composizione di una lente di occhiali originale per capire i pericoli conseguenti al fatto che non si utilizzino determinate accortezze nella composizione. Questo perché? Perché ovviamente ci accorgiamo delle ricadute soltanto quando il fenomeno si è manifestato. Ovviamente quando devo andare dall'oculista che magari mi dà a diagnosticare un problema alla vista e poi si riconduce il fatto, e difficilmente i consumatori fanno mea culpa in questo, di dire perché ho acquistato un prodotto contraffatto, perché anche questo è un altro fattore. I consumatori hanno, diciamo, una certa difficoltà a dover manifestare che per emulare, per goliardia, per moda hanno acquistato un prodotto che originale non è. Non vogliono confessare il peccato commesso. Esatto, perché significa un'ammissione di colpa, perché sono andato per poter emulare qualcuno, non ho le capacità per comprare un prodotto che ha un determinato costo, devo ricorrere a questi stratagemmi. Allora, il problema sociale è questo. abbandoniamo questa logica. Capisco che la crisi purtroppo oggi fa parlare bene i sapienti, no? Perché questo è. Però il punto è che, no, non ci rendiamo conto, no? Dice, vabbè, ma si parla bene, ma quando poi io non ho fede. Il punto è che bisogna abbandonare questa logica perversa di dover per forza, perché questo è un problema sociale, dobbiamo parlare di problemi. Per di forza avere quella grif che ti fa raggiungere un certo status, insomma, invece dobbiamo anche. E questo è un altro messaggio insieme a quelli che abbiamo dato nella prima parte della trasmissione, che magari potremmo impegnarci anche a trasmettere a figli e a tutte le nuove generazioni. Ho brutalmente interrotto Dino Cimanghia perché voglio sentire due ascoltatori, perché hanno due bellissime considerazioni che mi consentono di offrire un assist perfetto a Claudio Bergonzi, perché sono due argomenti che gli stanno molto a cuore. E poi avremo l'ultimo ospite, lo saluto già velocemente, Daniele Sommavilla, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Vicepresidente Global Sales di Certilogo, che è un'azienda italiana leader mondiale nelle soluzioni di autenticazione di prodotti di marca. Un impegno enorme, lunghissimo come qualifica e come carica, per raccontarci appunto cosa fanno. Ve lo farò sentire tra poco. Marco da Cuneo. Buongiorno. Velocissimo, grazie Marco. Ma io volevo mettere un appunto sul fatto che comunque la contraffazione, oltre a mangiare mercato alla grif, mette in difficoltà anche tante aziende come la nostra, che vendiamo dei prodotti, come per dire, se la grif è il burro, noi vendiamo la margarina. È l'indotto, Marco, no? Ma più che l'indotto, noi lavoriamo prodotti che sono complementari alla grif, diamo un prodotto a un prezzo minore, che però quando va sul mercato si scontra con i prodotti contraffatti. Certo, non c'è storia. Non c'è storia, esatto. Sì. Grazie Marco per la sua testimonianza. Maddalena da Udine. Io invece volevo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo lamentare una cosa, che sulla nostra spiaggia quest'anno si sono visti centinaia di cartelli dove si intimava di non fare acquisti ai mercanti della spiaggia, sanzionando il consumatore con delle cifre incredibili. Perché dobbiamo sempre pagare noi alla fine? Perché molte persone alla fine comprano un po' perché questi poveracci fanno anche un po' di tenerezza. Sì, come dicevamo in apertura, è vero. Io sinceramente ho comprato un paio di volte perché per un mese mi andava bene di fare la fighetta come tanti altri, però... Cosa sei comprata, Maddalena? Avevo comprato a Roma così da borsa. Me l'avevo comprata la borsa è lì, cadiamo tutti. 20 euro però mi è durata il tempo che trova. 20 giorni, sì. 20 euro, 20 giorni. Quindi grazie anche Maddalena. Sì. Mi è capitato di comprare anche una borsa griffata e mi è andato poco meglio, insomma, alla fine. Attenzione alle borse, insomma, che vengono trattate con delle materie non proprio, che non vanno proprio tanto bene, e poi si strusciano addosso alla pelle e ci vediamo degli sfoghi. Beh, bisogna telefonare a Cuore Denaro. Che cosa mi è successo? C'è tutta una ricaduta che non finisce più. Allora, Claudio Bergonzi, le offro sul piatto d'argento entrambi i commenti degli ascoltatori, che so la appassioneranno. Sì, sono due argomenti molto, molto interessanti. Marco Di Cuneo ha toccato esattamente uno dei temi centrali, cioè il danno non è solamente, è un effetto eco sostanzialmente quello che si ha nell'acquisto di merci contraffatte, di prodotti contraffatti, quindi non c'è solamente il danno alla grif, ma c'è un danno per prodotti di alta qualità o comunque di buona qualità, che però siano complementari alla grif. Quindi il ragionamento sostanzialmente sarebbe, chiaramente, se non posso accedere alla grif, accederei a un prodotto comunque con determinati requisiti di qualità, sia costruttiva che di trattamento dei materiali, eccetera, però di fatto non lo faccio perché tanto trovo l'alternativa alla grif falsa, che poi dura il battito di ciglia, però effettivamente questo è un danno che sta via via diventando sempre più importante, con un effetto eco che è da considerare. E questo è sempre uno dei danni indiretti, diciamo così, la contraffazione, nei famosi miliardi o triliardi di dollari o di euro, secondo da dove lo si guardi, in cui si valuta il problema, questo non è valutato, però effettivamente è un danno che va sempre a discapito delle piccole e medie imprese. Maddalena da Udine invece, Bergonzi, allora, Udine, tanti cartelli, loro circolano lo stesso, il consumatore compra, viene multato, ma il circuito non si ferma. Come dicevamo prima, al consumatore non si deve addossare ogni responsabilità, però il consumatore è parte di un sistema, è un po', diciamo, l'ultima spiaggia, perdonatemi il fatto che siamo in tema e in periodo. Devo dire una cosa, il venditore ambulante, se noi stiamo parlando di un sistema criminale organizzato, il venditore ambulante non possiamo considerarlo avulso dal sistema criminale organizzato. Uno studio del Ministero dello Sviluppo Economico con le Nazioni Unite evidenzia recentemente quali tipi di organizzazione ci siano anche dietro il venditore bancarellare ambulante, ovvero sia c'è un controllo della criminalità organizzata su produzione, distribuzione e distribuzione capillare. Quindi non consideriamo sempre avulso dal sistema il venditore ambulante, è in realtà l'ultima parte terminale di una filiera di commercio, chiamiamola così, che la criminalità utilizza. Quindi anche qui però, e concludo, il consumatore non deve essere lasciato solo, però è parte di un sistema in cui quindi le amministrazioni, le forze dell'ordine e il consumatore devono fare ognuno il loro sforzo e la loro parte. Allora, non siamo riusciti a sentire Daniele Sommavilla di Certilogo, vi spiego io velocemente, si tratta di un'applicazione che hanno scaricato già almeno 1 milione di persone, potete collegarvi sul sito www.certilogo.com, usare questa app, registrarvi e potete utilizzare appunto questa modalità tecnologica per fare la verifica di autenticità del prodotto che state comprando. Io adesso non riesco a spiegarvelo di più perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, prometto che sentiremo Daniele Sommavilla e gli amici di Certilogo al più presto, metteremo tutte le informazioni su Facebook, di più non possiamo fare perché il tempo purtroppo è scomparso oggi. Ma torneremo domani. Ottimo. Ringraziamenti ad Andrea Roccabella in regia la parte tecnica, a Marco Lombardo e Zotta Scenna, domani alle 11. A domani, buona giornata.